Radio 24. Libera la voglia di fare. Versione di Oscar, di Oscar Giannino. Eccoci qui, cari amici ascoltatori, in diretta alle 16:31 primi 20 secondi. Agli studi di Milano, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta in podcast qui della versione di Oscar. E vi pone subito una domanda, che è il tema della trasmissione, che potrà sembrare paradossale, ma mica tanto, visto quello che è in gioco nell'economia italiana, che bisogna sforzarsi in tutti i modi di fare crescere di più, lo sapete. Di che cosa si tratta? Il tema della trasmissione, ripeto, vi potrà sembrare paradossale, è il turismo del lusso. E la domanda è questa. Poiché da anni e anni stiamo perdendo punti rispetto a ciò che la Francia al Mediterraneo, la Spagna, la Croazia offrono, specializzando la loro offerta turistica anche per questo segmento elevato di gente che viene avendo molti soldi da spendere e che quindi pretende e sceglie il paese dove transitare, visitare da solo coi propri mezzi, visto che parleremo di barche, a seconda della qualità dei servizi offerti. Allora, visto che da anni noi perdiamo posizione, visto che ci siamo inventati da anni, credendo di far bene nel recente passato, alcune cose il cui bilancio poi è stato ulteriormente disastroso per la nostra economia turistica. Un esempio per tutti. La tassa di stazionamento per le grandi barche, ve la ricordate ai tempi del governo Monti, che si tradusse, invece che in maggiori incassi per lo Stato, si tradusse in una effusione di sangue del tutto a vantaggio delle marinerie diportistiche, appunto, della Francia, della Spagna, della Croazia, perché, come ovvio, la gente andò altrove. Ecco, e non solo, perché faccio questa domanda? Non solo c'è un impatto immediato, perché voi potreste dire: ma chi se ne frega, caro Giannino, quei problemi che abbiamo dei ricchi. Il problema è che noi perdiamo un pacco di quattrini, di risorse, per tutti i servizi che sono collegati al turismo del lusso, al turismo di lusso. Quindi non solo per gli alberghi, non solo per i ristoranti, non solo per l'assistenza nei porti, per i servizi alle barche, eccetera, eccetera. E questa roba qua pesa tantissimo sulla bilancia turistica italiana. Gli altri sono più bravi di noi, più furbi di noi, hanno meno pregiudizi di noi. Detto tutto questo, questo tema periodicamente rispunta e solo due settimane fa si scatenò una certa polemica sui media perché Briatore, il controverso Briatore, se la prese con il Salento e la Puglia dicendo: vabbè, voi il turismo dei ricchi non lo volete, sbagliate tutto. Adesso vediamo, c'è una registrazione di qualità un po' così, sentiamo un po' se si capisce quello che dice. Io voglio solo farvi capire come ragiona un ricco, ok? Voi volete attirare una clientela ricca? Che spenda soldi sul territorio, che venga, che compri, che vada nei ristoranti. Dovete avere anche i ristoranti per questa clientela, dovete avere la spiaggia per questa clientela, dovete avere gli alberghi per questa clientela, dovete avere delle strutture per i bambini di questa clientela. Ma nessuno la vuole quel tipo da allora. Come vedete, la risposta fu immediata, per così dire, perché fu preso come uno schiaffo alla qualità dell'offerta, fatto con un tono di Briatore, per così dire, invece che con un pacato ragionamento: vediamo che cosa ci si può guadagnare se si fanno alcune scelte per migliorare l'offerta turistica. Lì era una contestazione brutale, la risposta fu: non li vogliamo. Ecco, quando ho visto che domani c'è esattamente in Puglia un convegno che si propone di ragionare invece con una proposta concreta per tentare di rimediare ai punti che perdiamo sul totale del mercato mondiale del turismo di lusso, soprattutto nel Mediterraneo, per capirci, con una proposta concreta, mi sono detto: adesso io prendo quelli che hanno questa idea e organizzano questo incontro e provo a fargliela spiegare. La domanda per voi tutti è, soprattutto se siete in parte d'Italia che vivono con un valore aggiunto del turismo all'economia locale molto forte: Non avete anche voi l'impressione che bisognerebbe fare qualche cosa di più e di meglio in tutti i segmenti dell'offerta turistica? Ripeto, porti, cantieri, servizi alle barche, qualità degli hotel, qualità della ristorazione, eccetera, eccetera, per tentare di impedire che vadano altrove, perché chiunque abbia l'esperienza di come è evoluta nel tempo l'offerta altrove sa che invece dalla Spagna all'Alto Adriatico, lì effettivamente sembrano averla capita questa lezione, hanno meno pregiudizi di noi. Quindi telefonate e ditecelo all'800240024. Ma intanto sentiamo domani cosa avviene a questo convegno, il cui titolo è La rotta del lusso, e sono gli agenti marittimi che lanciano in Puglia questo progetto di un'enclave italiana del turismo top. Per chi fosse interessato, domani mattina alla Sala Ignazia a Borgo Ignazia, a Savelletra di Fasano, quindi stiamo parlando in provincia di Brindisi, c'è tutta una mattinata di riflessione, naturalmente con la politica locale, con il vicepresidente di alta gamma, con le autorità istituzionali, e conclude questo convegno il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, che pure anche lui non si risparmiò una risposta abbastanza esplicita alla provocazione di Briatore. Intanto, per farci capire di che si tratta, per spiegarci con un po' di numeri alla mano di che cosa stiamo parlando, è con noi il presidente di Federagenti Yacht, Giovanni Gasparini, che ringrazio di essersi reso disponibile. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, dottor Giannino, e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Allora, ci spieghi un secondo. Innanzitutto dia un po' l'idea di che cosa stiamo parlando, come ordine di grandezza, risorse, flussi che si possono intercettare, e poi ci spieghi qual è la vostra idea concreta. Ma noi abbiamo un bacino, diciamo, di miliardari, che nel mondo all'incirca, secondo le statistiche, sono attorno ai 1860 attualmente. E la fortuna dei super ricchi, miliardari e milionari, supera più o meno i 130 trilioni. Cioè 130 mila miliardi di dollari, stiamo parlando di una cosa di questo genere. Okay. Di dollari. Quindi abbiamo una domanda potenziale di lusso e di spesa che non è indifferente. Quindi il nostro ragionamento che abbiamo fatto, è già 2 anni che come sezione Yacht stiamo girando l'Italia, a Porto Cervo, l'anno scorso a Trieste, quest'anno in Puglia, e di far fare un ragionamento, anzi o meglio, di costruire un qualcosa con le amministrazioni locali, con gli imprenditori locali, in modo tale da rendere i territori appetibili per questo tipo di turismo. Noi siamo abituati a pensare al mega yacht come un oggetto che arriva in porto e lì finisce il gioco, finisce con l'attracco in banchina oppure con il bagno, la moto d'acqua nelle acque limitrofe ai porti. In realtà quello è solamente una parte dell'attività di questo tipo di turismo. La parte che poi viene dopo è quella che, della quale è interessato assolutamente l'entroterra, e lì è la potenzialità che noi come Italia abbiamo dal punto di vista, ora non si finisce mai di ripeterlo, artistico, museale, un enorme patrimonio. Bisogna costruire però una cosa che è importante, la filiera, cioè il punto di raccordo tra lo yacht, chiaramente i suoi ospiti, e quello che c'è nel retroporto e nella regione nella quale il porto grande. Perché, come è evidente, tanto più scendono e tanto più spendono localmente, quanto più c'è la capacità di invogliarli a farlo e di soddisfarli. Chiaramente, soprattutto l'invogliarli a farlo. Tenga presente che mediamente durante una sosta la spesa media che abbiamo calcolato degli ospiti di uno yacht va da 1.000 a 5.000 euro per una sosta che mediamente può essere di 12 ore. Parlo della spesa a livello di ristorante, shopping e quant'altro. E questa è una potenzialità che secondo me perdere non è molto intelligente. No, assolutamente significa avere la certezza di regalarla agli altri, ecco, ad altri paesi. Altri, questo è il punto. Appunto. E in questo discorso, naturalmente, senza contare tutte le potenzialità che, fra l'altro, l'Italia ha, perché il Made in Italy e la costruzione dell'oggetto yacht è già un'eccellenza italiana, per cui i più belli yacht che ci sono, che stanno navigando ora nel mondo, sono yacht costruiti in Italia, per cui costruiamo dei bellissimi oggetti che però rischiamo di perdere perché vanno in acqua in territori degli altri. Ecco, siccome noi, come ora faccio una piccola battuta forse di presunzione, come nostra caratteristica professionale abbiamo quella di rappresentare gli armatori e i comandanti delle navi, perché noi facciamo anche marittimo normale, certo, non solamente io. Però allo stesso tempo, storicamente, siamo stati anche fondamentalmente degli ambasciatori dei territori, perché chiaramente l'interesse è attrarre gli armatori, attrarre le navi nei nostri porti e nei nostri territori per i nostri servizi. Quindi noi vogliamo mettere a disposizione questa nostra diciamo cultura professionale per costruire qualcosa di veramente nuovo anche per questo tipo di turismo. L'importante è non vederlo più come un qualcosa, perché molto spesso se ne fa una valutazione moralistica, tra virgolette, del lusso. Invece noi dobbiamo ribaltare un attimino la cosa, dobbiamo trasformarla in una valutazione economica di opportunità di crescita. Cioè, bisogna fare in modo che da quel lusso venga reddito aggiuntivo a noi, reddito questo è il punto. Chiaro. Allora, però il problema è, una volta chiarito l'enorme potenziale di questi numeri, cioè, pensate solo alla moltiplicazione in termini di decine e decine di milioni ogni anno di cinesi che ascendono a una fascia di reddito che da quella intermedia oramai sale verso quella più alta, che viaggiano tantissimo, vengono in Italia di solito a fare un tour all'interno del tour europeo di pochi giorni, comprano moda di solito, eccetera eccetera, però diventeranno poi sempre di più, a centinaia di milioni in pochi anni entrano in questa fascia aggiungendosi a quelli tradizionali, cioè dei russi arricchiti, dei principi arabi e così via. Ma in realtà, concretamente, domani che proposta voi avanzate? Ma noi partiamo dal presupposto che costruire questa filiera implica il coinvolgimento di tutti quelli che sono gli attori del porto e del territorio retrostante. Quindi noi vogliamo, desideriamo o auspichiamo, meglio dire, perché chiaramente bisogna essere sempre in un certo numero per costruire qualcosa, non è che si possa fare da solo, una procedura, o meglio un processo di sviluppo comune, vedendo quali sono le istanze, le richieste di questi turisti e vedendo di virare l'offerta nostra in modo tale da poterli accontentare. Questo non significa che tutti immediatamente dovranno diventare ristoranti per quel tipo di clientela, o tutti dovranno essere dei negozi, delle boutique adatte a quel tipo di clientela, però anche cambiare inizialmente la mentalità consente di entrare in un settore. Faccio un esempio che può sembrare una sciocchezza: molti dei nostri clienti, per esempio, gradiscono avere un assaggio di quello che possono trovare nei negozi, per esempio parlo dell'arte ora, fare queste cose qui direttamente a bordo. Quindi già il dare la propria disponibilità come artigiano o come artigiano oppure venditore di oggetti che possono essere la moda e quant'altro, di salire a bordo e non aspettare che il cliente venga a te per mostrargli e espogli quello che può vendere, è un cambiamento di mentalità che vuole dire qualcosa. Chiaramente è un lavoro, perché il problema di questo tipo di turismo, o meglio degli investimenti in questo tipo di turismo, è che c'è un po' il cane che si morde la coda. Io, per avere questo tipo di cliente, devo fare un grande investimento perché gli devo offrire tanto. Fintanto che non ho il cliente, chiaramente lo so, l'investimento diventa molto rischioso. Però costruendo però questo un ambito comune, diciamo che l'investimento in certo qual modo viene spalmato sul territorio, quindi ci sarà chiaramente la possibilità di accedere a dei finanziamenti o comunque avere un aiuto e fare una cosa che sia guidata e programmata. Allora, adesso noi abbiamo un minuto di informazione stradale sul traffico, però io le anticipo la questione. Facciamo un passo indietro, ma dal punto di vista tecnico dell'offerta di infrastrutture, cioè nell'ambito della portualità italiana per diporto, poiché lo vedo già dalle reazioni, moltissimi nostri ascoltatori dicono: no, beh, ma non è che ci state proponendo una ricementificazione ulteriore attraverso porti ad hoc per i mega yacht. Ecco, questo è un tema fondamentale, perché la questione è innanzitutto spiegare in poche parole come siamo messi da questo punto di vista, perché la moltiplicazione delle marine da diporto è uno dei temi che anche a chi non è o non può o non gli interessa la diportistica appare come uno dei punti su cui l'Italia più ha sbagliato nei decenni alle nostre spalle. Però ricominciamo da questo punto, tra un minuto, intanto strade. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta, è con noi il presidente di Federagenti Yacht. Domani un convegno in Puglia e lo abbiamo ricollegato alla provocazione di Briatore, che due settimane fa diceva: ma voi non li volete i turisti ricchi? Abbiamo tentato di spiegare che invece è una grande chance, e abbiamo tentato di spiegare insomma quanto grande è il flusso che bisogna tentare di intercettare. Certo, bisogna cambiare mentalità, bisogna cambiare il modo di offrire i servizi. E gli avevo fatto una domanda a Giovanni Gasparini, intanto su una questione di fondo: ma la nostra offerta infrastrutturale per portuale per il diporto è all'altezza? Consente di capire su quali punti e quali poli concentrarsi oppure no, Gasparini? Ma lei ha toccato un punto fondamentale. Innanzitutto, pensare di costruire nuove marine turistiche grandi, tra l'altro gli yacht stanno andando anche loro verso un gigantismo, quindi parliamo 100, oltre 100 metri di lunghezza, chiaramente andrebbe a rovinare una parte della nostra ricchezza, la bellezza della costa. Però nell'ambito della riorganizzazione portuale che ora è in atto in questi mesi, insomma in questi anni, ci saranno certamente delle aree di porti che verranno magari rese disponibili per questo tipo di nautica, quindi è tutto un lavoro anche di riqualificazione. Non si deve pensare a una cementificazione per attirare, anzi nel punto fondamentale del nostro ragionamento è che questo turismo non si ferma al porto, ma va nella parte interna, per cui fondamentalmente il nostro interesse è di guardare quello che sta dentro per renderlo utile e soprattutto appetibile per il nostro cliente. Quindi è un discorso, chiamiamolo un po' come una sorta di rivoluzione ammigliorativa anche per l'ambiente, per l'ambiente, per la costa, assolutamente. È infatti. Allora, intanto abbiamo parecchi ascoltatori che ci hanno telefonato. Vorrei dire a chi mi dice: ma è in contraddizione con la mia posizione sul referendum? Mi avete sentito dire come voto? Ragazzi, per favore, capisco che molti credano che il referendum cambia tutto il mondo. Stiamo parlando di un'altra cosa comunque. E ripeto, non mi avete sentito dire come voto, perché come conduttore preferisco non dirlo. E abbiamo alternato gli ospiti la mattina con Alessandro Mina del sì e del no, con lo stesso minutaggio, perché sappiamo i nostri doveri. Ma detto tutto questo, vediamo alcuni di coloro che ci hanno telefonato. Cominciamo con Andrea da Udine. Andrea, prego. Sì, buon pomeriggio. Io volevo fare un intervento con una domanda un po' provocatoria. Sì. È stato detto appunto dal suo ospite che mediamente uno yacht genera un introito tra i 1.000 e i 5.000 euro in una sosta di 12 ore. Sì. Ma la mia domanda è questa: che investimento occorre fare dal punto di vista appunto dell'entroterra, quindi non solo del porto, per poter intercettare un flusso di queste proporzioni? Correttissimo, domanda economica. Vediamo, poi ridiamo la parola al nostro ospite per risponderle. Serafino? Vi chiamo da Cagliari. Da Cagliari. Soprattutto mi occupo di turismo, quindi conosco abbastanza bene il problema. È quello che la Sardegna in passato ha fatto per evitare che da noi venisse, no? La tassa famosa del nostro ex presidente, con i danni che solo probabilmente dall'anno scorso noi abbiamo iniziato a sanare. A riparare, sì. Sanare, i numeri dell'anno scorso sono stati spaventosi. Quest'anno è stato un ulteriore incremento di quasi il 30% di presenza degli yacht. Il problema di fondo è questo: non è solamente un problema di servizi portuali, perché Porto Cervo ha posti barca molto numerosi, certo, e anche importanti in termini di dimensioni. Siamo noi che possiamo dare i servizi a terra che facciamo la differenza. Perché io i numeri che ho rispetto a quanto produce uno yacht sono più elevati del presidente, molto più elevati. Sarà perché gli yacht nostri sono molto grandi, e quindi i numeri che riescono a scaricare a terra sono molto più elevati. Il Presidente parlava di una media, è ovvio che lei sta parlando di un segmento elevato, cioè, tra gli elevati. Ecco. Perfetto, noi abbiamo probabilmente la parte apicale di questa situazione, fortunatamente. Il problema vero è che la politica ha osteggiato questo. Forse non c'è bisogno di nuovi porti, ma dove i nuovi porti ci sono, creano attività turistica nell'entroterra. Il turismo che funziona ha sempre un grande porto, che sia di grandi yacht o che siano piccoli. Benissimo, Serafino. Quindi lei, è chiaro che con l'esperienza sul campo, dice, e la sinergia dell'offerta a terra, quella è la vera differenza. Roberto da Milano, breve però. Roberto, prego. Sì, buonasera. Non mi meraviglio dei pugliesi che si sono svegliati. In Montenegro, che è a 50 km dalla Puglia, hanno costruito praticamente una piccola Monte Carlo fatta solo per i ricchi. E sono andati lì con gli yacht, con le barche, è andata lì la gente. E alimentano la loro economia, Roberto, esattamente quello che stiamo dicendo. Ridiamo un secondo la parola a Gasparini, il presidente delle Federagenti Yacht. Ha sentito la prima domanda, dice, ma la quantità di investimenti necessari per questa qualificazione dell'offerta di cui lei ci ha parlato, prima di vederne poi i risultati, è tale da consentire agli operatori locali, che magari hanno taglie finanziarie non solidissime e così via, di considerarla un'operazione davvero appetibile, Gasparini? Ma per quello noi vogliamo la creazione di questa filiera è pensata appunto per consentire di rischiare meno, nel senso che una volta che si costruisce un progetto e nel progetto sono coinvolte le amministrazioni e c'è una garanzia anche di qualità di chi rientra, automaticamente diventa più facile il gioco, perché poi chiaramente il territorio viene premiato dall'arrivo dell'ospite, che trova dove spendere, perché la propensione alla spesa, diceva correttamente Serafino da Cagliari, e io sono stato teoricamente sarebbe da 1000 a 5000 per ogni passeggero di uno yacht, quindi i passeggeri sono 12, è un discorso, un numero chiaramente che ha. Però se io ho i negozi che sono in grado di offrire dei beni atti a queste spese, chiaramente sono, è ovvio sicuro che poi si alza. Saranno. Attenzione a una cosa, questi ospiti hanno anche un'altra richiesta nei nostri confronti, che è qualcosa che caratterizza l'Italia in quanto Italia, cioè il modo di vivere italiano che esatto. Ha e questo speriamo culturale. Di mantenerlo adeguatamente capace di continuare ad attirare questi flussi. Allora, chi può domani vada al convegno. Intanto grazie all'idea di Federagenti Yacht, grazie a tutti voi, tantissimi volevano ancora telefonare e intervenire. Continuate su Radio 24 domani mattina dalle 10 alle 12, appuntamento ai conti della Belva come ogni sabato mattina.